che ti incontravo. Un litigio era scontato, ma per me anche questo ricordo è splendido. Mi ha insegnato così tante cose che paura non avrò, anche se sarà difficile. La felicità conquisterò e perciò andrò avanti anche da solo, anche se mi farà male. Non smetterò mai di portare il sogno della nostra storia. E io volevo soltanto stare insieme a te e a nessun'altra. Ma quando il sole era in alto accanto a me non ti ho trovata. Io pensavo che il nostro gioco non si sarebbe mai interrotto, ma era solo un mio pensiero, ora lo so. Adesso finalmente non mi pento più di essere nato. È un po' triste, ma io me ne andrò come in una festa che fra un po' finirà. Correrò ogni distanza grazie a quello che ho imparato. È la nostra felicità che abbiamo sognato, raggiungerò. Anche se siamo divisi, per quanto tu sia lontana da me, la mattina io mi alzerò e una nuova giornata vivrò. Andrò avanti anche da solo, e se mai vorrò morire, sentirò la tua voce, mi dirà di non mollare. Anche se mi farà male, se piangerò per la solitudine, nel profondo del mio cuore sentirò il tuo calore. E nel mentre il tempo è volato, e nel mentre tutto è passato, mi sento come avessi scordato un qualcosa ma non ricordo. Ma io quando chiudo gli occhi sento come una voce in me, come se fosse un sorriso, sarà il mio più bel tesoro. Andrò avanti anche da solo,